l'amante. Calvo, obeso, con una moglie frigida, e l'altra, grande madre carota, focomelica, lo insegue come un figlio brandendo un frustino. Al bando delle matasse si troverebbe ad obliterare le sue scienze delle comunicazioni esatte se non lo soccorresse all'improvviso una quanto mai provvida chiamata urgente sull'altro cellulare. E sono solamente le 7.